Eddie King e Maybe May con Are You Pushed to Love. Colgo l'occasione per questa trasmissione di ricordarvi che Soul Time torna in pista, diciamo così, dal vivo con i propri dischetti il sabato 21 aprile al CSA Next Emerson a Firenze in via di Bellagio. Dalle 22 in poi monteremo insieme al buon Ginox l'Emerson Setters Sound System per una versione prettamente soul e R&B dell'Emerson Setters Sound System. Con due ospiti speciali, ospiteremo da Bologna Michele Coco e Fat Fabio, due grandissimi collezionisti di musica soul, funk, popcorn, R&B, gospel funk e modern soul, a cui aggiungeremo anche del buon northern soul anche noi, per una serata che si chiama Dance Fast, in collaborazione proprio con il CCA Next Emerson e con Brugole e Merletti, il festival che si tiene tutti gli anni proprio al Next Emerson, festival dedicato all'autocostruzione e l'autoproduzione, dove troverete tantissimi smanettoni da tutta Italia che andranno a a lavorare in particolare anche su tanti bellissimi aggeggi dedicati alla nostra radio. E poi ci saranno tantissime altri workshop che via via si stanno aggiungendo, e poi me ne racconterò un po' la prossima puntata, quando il programma di Brugole e Merletti sarà aggiornato. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento, mi raccomando, per sabato 21 aprile 2018 con tantissimi sette pollici, appunto soul, funk, popcorn, R&B e chi più ne ha più ne metta, anche northern soul ovviamente, con Dance Fast sabato 21 aprile al CSA Next Emerson con graditissimi ospiti speciali Michele Coco e Fat Fabio dalla crew Bologna calibro 7 pollici. Quindi, dopo questo spazio pubblicità, direi di proseguire con la nostra musica. Vi voglio proporre Harold Melvin and the Blue Notes, grandissimo gruppo musicale tra i più popolari del Philadelphia Soul degli anni 70. Il loro repertorio comprendeva diversi generi musicali come il soul, l'R&B, il doo-wop, fino ad arrivare alla disco music. Il gruppo Harold Melvin and the Blue Notes fu fondato proprio a Philadelphia all'inizio degli anni 50 con il nome di The Charles Magnus. Alcuni dei loro successi furono prodotti da A Gamble and Huff tramite la loro etichetta Philadelphia International Records ed incisi tra il 1972 e il 1976. Questo gruppo ha continuato ad esibirsi e a registrare fino alla scomparsa di Melvin avvenuta nel 1997. Sebbene Harold Melvin sia stato il fondatore del gruppo, il componente più famoso e conosciuto dei Blue Note è rimasto Teddy Pendergrass, voce solista durante gli anni di maggior successo degli Harold Melvin and the Blue Notes con la casa discografica Philadelphia International Records. Io per questa puntata di Soul Time di questo grandissimo gruppo di Philadelphia vi propongo in realtà un brano su etichetta Landa Records e non degli anni 70, periodo di maggior successo di questo gruppo, ma risalente un po' agli inizi della loro carriera. Vi propongo un brano del 1965 che si intitola Get Out and Let Me Cry. Harold Melvin and the Blue Notes. Just hung up the telephone. I've heard all about you. Your new boyfriend couldn't wait to tell me that you and I are through. Don't try to spill my feelings, just get out. Questo era Harold Melvin and the Blue Notes con Get Out and Let Me Cry. Prossimo brano qui su Soul Time su Radio Wombat è di Jimmy Hughes. Jimmy Hughes, nato nel febbraio del 1938, cantante americano di R&B, i cui maggiori successi risalgono alla metà degli anni 60. In particolare il suo successo grande brano Steal Away, che furono poi molto importanti nello sviluppo iniziale dei Muscle Shoals all'interno dell'industria discografica. Tra l'altro il nostro Hughes era cugino di Percy Sledge ed è nato e cresciuto in Alabama, iniziando a cantare in un quartetto gospel. Quindi io questa sera di Jimmy Hughes vi propongo il grandissimo brano It Ain't What You Have Got, stampato su etichetta Atlantic, ed è un brano scritto dallo stesso Jimmy Hughes, stampato nel 1967. Ve lo propongo subito, eccolo qua che arriva, Jimmy Hughes, It Ain't What You Have Got. Jimmy Hughes con It Ain't What You Have Got. Il prossimo pezzo invece è di James Conwell. Vi ricordo che qui siamo su Soul Time e siete sulle frequenze di Radio Wombat. Potete ascoltare Radio Wombat anche sulle frequenze AM, sulla frequenza 1359 in onde medie e sul nostro sito radiowombat.noblogs.org. Dicevamo, il prossimo brano è di James Conwell. James Conwell, che ha iniziato la sua carriera discografica con gli Exits di Los Angeles, gruppo che incise soltanto 4 singoli, 3 su Gemini e 1 su Cap Records, ma che poi, dopo questa breve esperienza con questo gruppo di brevissima durata ma di altissima qualità, dopo questa esperienza appunto proseguì la propria carriera musicale. Quindi vi propongo questo brano solista di James Conwell, che si intitola The Trouble with Girls, tra parentesi, of Today, del 1963, rimaniamo negli anni 60, questo brano stampato su etichetta 4J Records. James Conwell, The Trouble with Girls of Today. James Conwell con The Trouble with Girls of Today. Prossimo pezzo ci ascolteremo Jean Duchon, nata Anna Jane Harris nell'agosto del 1935, cantante particolarmente nota per le sue incisioni jazz e R&B. Cantante americana, oltre che essere cantante, è stata anche un'attrice di teatro. È conosciuta soprattutto per le prime sue registrazioni negli anni 60, compresa la prima versione della canzone For Once in My Life. Nata a Detroit, ha cantato in chiesa da bambina e in seguito ha iniziato a vincere concorsi su concorsi di talento locali. È diventata professionista già all'età di 15 anni, iniziando a esibirsi nei nightclub. È stata influenzata da Dinah Washington, dalla grandissima voce di Dinah Washington, e in un'occasione furono anche messe, diciamo così, l'una contro l'altra. fu messa di fronte a una rabbiosa Dinah Washington che la accusò di averla copiata. La nostra Jean Duchon ha studiato al conservatorio di Detroit, attirando subito l'attenzione dell'agente John Levy, manager della cantante Nelsie Wilson. E iniziò così a esibirsi in tutti gli Stati Uniti, dopo che il manager gli aveva promesso di farla diventare una grande star, arrivando a superare la stessa Nancy Wilson. Ma le promesse furono disattese. E dopo passò, dopo averlo sposato, sotto l'egida del manager Freddie Atwell. Poi la Duchon si unì alla band di Cootie Williams come cantante prima di essere notata da Hammett Ertegun della Atlantic Records, che la abbinò a un giovanissimo produttore, un certo Phil Spector, registrando subito una versione di Talk to Me di Little Willie John su ATCO nel 1961, ma questa versione non ebbe un grandissimo successo commerciale. La Duchon poi iniziò a registrare svariati singoli con diverse etichette, tra cui anche la O'Kee e la Columbia, prima di entrare a far parte della Chess Records nel 1964. Chess Records nel 64, dove registrò il suo primo album, Makeway, scusate, e registrò anche con il quintetto di Lou Donaldson. Quindi vi propongo della nostra Jean Duchon questo gran brano che si intitola Hitchhike, brano che tra l'altro ve lo vado a leggere, fa parte proprio dell'album che vi ho citato prima, album intitolato Make Way for Jean Duchon. Gonna hitchhike. Well, she'll Hitchhike di Jean Dujon. Con il prossimo pezzo passiamo alla figura di Jimmy Gresham. Jimmy Gresham, nato nel 1934 a Selma in Alabama, è un cantautore soul. La BMI elenca 14 brani incisi al suo attivo. Ha scritto e prodotto dischi a Los Angeles durante gli anni 60. È anche suonato nella band di Rosie Grier e ha scritto anche diversi brani per l'etichetta di Rosie, l'etichetta Tuckfull. È anche apparso in diversi spettacoli con il grande Wilson Pickett, Joe Tex e molti altri grandi della musica soul. Al momento il nostro Jimmy Gresham si trova nelle carceri statunitensi, è detenuto sta scontando una pena di 30 anni senza possibilità di libertà condizionale, è detenuto al partire dall'ottobre del 2008, accusato di un traffico in cospirazione per traffico internazionale di cocaina. Jimmy Gresham al momento ha diversi sostenitori che appunto sostengono il fatto che sia stato condannato ingiustamente, e c'è un movimento che lo sostiene, che si chiama Free Jimmy Gresham, in quanto diverse prove che hanno portato alla sua condanna vengono ritenute alquanto superficiali, e quindi si va a sostenere l'innocenza del cantante statunitense. Io vi propongo questo brano di Jimmy Gresham che si intitola Come On, brano inciso come Jimmy Gresham and Gibson and the Gibson King. Brano stampato su etichetta Kitty Records. Ci andiamo ad ascoltare Come On. Come on in this direction. Hey, hey. Yeah. Come on. I'm the one who loves you. Let me be the one who hugs you. I'm the one who needs you. Come on and let me lead you. Hey, hey. Gresham and the Gibson Kings con Come On. Quindi dopo il nostro Jimmy Gresham a cui auguriamo di dimostrare la sua innocenza davanti alle tremende carceri statunitensi. Passiamo a James Brown per la serie Dacci il nostro James Brown quotidiano. Vi voglio proporre. Scusatemi, vi voglio proporre questo brano del 1962 su etichetta King, etichetta, vi ricordo, di proprietà dello stesso James Brown, che tra l'altro la King Records era veramente una fabbrica di soldi. La sala di registrazione era accanto al magazzino vero e proprio dove i dischi venivano stampati. Ricordano alcuni dei collaboratori e dei musicisti che lavoravano con James Brown che tantissime volte il brano veniva inciso presso la sala di registrazione e direttamente 5 minuti dopo passava alle stampe, quindi veramente una vera e propria industria discografica. Quindi vi dicevo, brano del 1962 di James Brown and the Famous Flames, che si intitola Night Train. James Brown. All aboard for Night Train! Questo era Night Train, uno dei tantissimi grandi brani di James Brown. Ce la siamo già ascoltata qualche pezzo fa, Jean Duchon. Mi è capitato tra le mani un altro suo brano, un altro suo grandissimo brano che mi fa piacere proporvi. Vi raccontavo che Jean Duchon a un certo punto della sua carriera andò a collaborare, a incidere e registrare per la grande etichetta Oki Records, ed è proprio un brano di questo periodo che vi faccio ascoltare, un brano del 1962 che si intitola Second Class Lover. Lei ancora Jean Duchon. E ci siamo ascoltati anche questo dischetto Oki con Second Class Lover di Jean Duchon. La puntata sta per concludersi. Ho un altro brano da proporvi, poi ci andremo a riascoltare Soul Time settimana prossima. Vi ricordo tutti i mercoledì alle 17:30 su Radio Wombat con replica il venerdì mattina alle 10 di mattina e il sabato alle ore 21, e naturalmente il podcast ascoltabile di puntata in puntata sul sito di Radio Wombat alla voce podcast, appunto. Vi rinnovo anche lo spazio pubblicitario per quanto riguarda Soul Time, che ritorna letteralmente in pista con vinili e sound system autocostruito. Vi ricordo l'appuntamento per sabato 21 aprile 2018 al CSA Next Emerson in via di Bellagio a Firenze. La musica partirà intorno alle 22. Prima c'è il festival Brugole e Merletti, che inizia durante la giornata del 21 aprile e proseguirà anche il giorno dopo, domenica 22. Vi rinnovo l'appuntamento con Dance Fast, appuntamento ricco, ricchissimo di 7 pollici o 45 giri, che dir si voglia, del nostro amato genere musicale soul, con tantissime sue sfaccettature. Ci andremo ad ascoltare tanti vinili soul, funk, gospel funk, popcorn, R&B, modern e naturalmente northern soul, con la selezione di due grandissimi ospiti speciali, Michele Coco e Fat Fabio, direttamente da Bologna, dalla crew Bologna calibro 7 pollici. Io vi saluto e vi lascio con un brano latino un brano di Pete Terras, il cui vero nome è Pedro Gutierrez, alias Peter Gutierrez, nato nel 1927 a New York. Grandissimo compositore, arrangiatore, vibrafonista, batterista e percussionista di jazz latino e jazz afro-cubano, che ha conosciuto le sue ore di gloria con il cha-cha-cha e in particolare con il boogaloo. Figura davvero molto molto importante per la musica latinoamericana e la musica in generale, ha influenzato tantissimi tantissimi artisti il nostro Pete Terras. Da raccontare su di lui ci sarebbe moltissimo, ma la puntata appunto sta per concludersi, quindi il tempo è quello che è. Comunque vi lascio con questo suo grandissimo brano, Pat Terras con I'm Gonna Make It Baby. Saluto tutti e tutte e ci risentiamo mercoledì prossimo qui su Radio Wombat. Stop it!